Ecco, noi Franco dei Comitati contro la geotermia elettrica speculativa ed inquinante, per parlarci della festa, la quarta edizione di Giù le mani dalla nostra terra a Monticello Amiata in provincia di Grosseto il 7 e 8 luglio. Franco, ben trovato. Ciao a tutti, buongiorno. Ci Allora, sì. parliamo, cominciamo insomma dai comitati, ci racconti di questa esperienza? Sì, allora, i comitati sul Monte Amiata, sia sul versante senese che sul versante grossetano, dove stiamo noi, esistono, diciamo, da due fasi. Una prima fase più vecchia, fine anni 90, primi anni 2000, quando Enel iniziò a potenziare lo sviluppo industriale geotermico sull'Amiata con la costruzione l'ampliamento delle centrali che già esistevano, soprattutto nel versante senese, e poi dagli anni 2000, più o meno dal 2010, era iniziato un nuovo ciclo di lotte, invece questo sul versante grossetano, perché anche sul versante grossetano hanno iniziato a costruire centrali molto grosse. L'ultima è Bagnore 4, finita di costruire nel 2013. Il problema della geotermia e dello sviluppo dei comitati è che a livello mediatico, quasi in maniera del tutto, in maniera totale, la geotermia è vista ed è vissuta dai cittadini come un'energia verde, green economy, come diceva Renzi quando ancora era a cavallo. In realtà questa visione è a 360 gradi, nel senso che PD e Forza Italia sono andati a braccetto sulla questione geotermica e non c'è stato nessun conflitto tra di loro, anche se la sono gestita, se la sono spartita senza grossi problemi. Quindi coloro contro cui andiamo a combattere è, almeno fino a marzo di quest'anno, la stragrande maggioranza dello scenario politico istituzionale italiano. Qual è il problema della geotermia? Che bisogna spiegarlo per chi non è addentro alla situazione. La geotermia sostanzialmente è l'estrazione del fluido, diciamo, magmatico sottoterra a varie profondità. Infatti si parla di geotermia alta, media e bassa entalpia, in base a quanto a fondo si va. E di per sé la geotermia non sarebbe dannosa e non sarebbe un problema, non fosse che, come ci hanno spiegato in tutti i modi i vari geologi a cui ci siamo affidati, italiani e stranieri, la geotermia, in base al territorio in cui la risorsa si trova, è più o meno sporca. Se si va qua sulla Amiata, che è un ex vulcano, è un'ex miniera, la seconda più importante miniera di cinabro Europa fino a 40 anni fa, e si va a estrarre il fluido geotermico, che è enormemente sporco rispetto a quello di altri territori in giro per il mondo. E poi, una volta fatta girare le turbine, io semplifico il più possibile per non Sì, annoiare chi ci certo. ascolta, e una volta fatta girare le turbine con questo fluido, quello che resta lo si butta nell'aria. Risulta evidente anche dai dati dell'ARPAT che vengono quotidiamente buttati nell'aria e poi ricadono al suolo tonnellate, quintali, chili di metalli pesanti di tutti i tipi, dall'arsenico al tallio che abbiamo scoperto recentemente, che non è normato, a di tutto CO2, ammoniaca, eccetera, eccetera, eccetera. Le centrali dell'Enel sull'Amiata sono tutte cosiddette flash, cioè hanno il meccanismo che ho detto prima. Vanno intorno ai 3-4 mila metri in profondità, estraggono il fluido, fanno girare la turbina, producono elettricità, ciò che rimane lo buttano nell'aria. Da più o meno il 2008 hanno messo dei filtri che si chiamano AMIS, che però filtrano solo tre sostanze delle decine che vengono buttate nell'aria e non le filtrano sempre. Tanto che studi svolti da varie università, l'ultima quella di Pisa, dimostrano in maniera, penso, inoppugnabile, sempre che la scienza possa avere questa valenza, che più o meno dal 2001 ad oggi la presenza dell'arsenico nelle acque dell'Amiata si è moltiplicato in maniera esponenziale. Ora siamo, diciamo, mediamente con rispetta i limiti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, solo per dirne una. Quindi qual è il problema contro cui i comitati si trovano a combattere e il motivo per cui è così faticoso? Facciamo l'esempio più classico per capirci. La TAV in Val Susa, arriva l'enorme macchinario che inizia a bucare la montagna, e lì è indiscutibile. Cioè, anche i ciechi vedono il danno che viene prodotto con tutto quello che ci sta intorno, che non significa che sia facile combattere, non sto dicendo questo, sì. Però per il cittadino medio è molto più immediato. La geotermia è sì un impianto industriale brutto in un territorio bellissimo, però ce n'è 3, 4, 5, non è che sia così tremendo, soprattutto in un territorio come il nostro che è molto poco sviluppato dal punto di vista industriale e quindi c'è anche abbastanza difficoltà a trovare lavoro. Quindi per il cittadino medio è molto facile fargli credere, creiamo posti di lavoro, è un'azienda come le altre, però molto meglio delle altre perché produce energia verde, sostenibile, lo dice anche l'Europa. E il cittadino medio ci crede, anche perché poi, secondo fattore non paradossale come le elezioni di marzo ci hanno insegnato, il Partito Democratico, PDS, PC, tornando indietro nella storia, ha governato in maniera monopolistica il territorio negli ultimi 70 e passa anni. Quello che dice il partito fino a poco tempo, pochissimo tempo fa, quassù in Toscana in generale, sulla Miata anche, quello che dice il partito è la verità, quella di maiuscola, e quindi ci si scontrava contro un muro di gomma complicatissimo. Quindi abbiamo dovuto, e quindi arriviamo alla storia dei comitati, formarci, cioè capire che cosa stava succedendo, faticosamente trovare scienziati indipendenti, veramente indipendenti, che avessero voglia di studiare quello che succedeva e appoggiare i nostri timori e confermarli, come purtroppo poi è successo, e poi iniziare una battaglia complicatissima per far capire ai nostri concittadini, alle persone con cui viviamo, ai nostri paesani della Miata, che c'è un problema serio, che non è solo della Miata, perché la Miata ha il più importante bacino d'acqua potabile del centro Italia, che sarebbe il Fiora, gestito dall'acquedotto del Fiora. L'acqua del Fiora serve più o meno 700.000 persone tra le province di Grosseto, Siena e Viterbo. La presenza dell'arsenico ormai è indiscutibile, si discute, nel senso che noi abbiamo dimostrato, secondo il nostro punto di vista, che da che si è ampliato lo sviluppo geotermico, l'arsenico nell'acqua è, come dicevo prima, esploso. Siamo mediamente al doppio della presenza consigliata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ricordo che l'arsenico è un tumorale di primo livello, nel senso che non va ingerito, perché è un tumorale. Quindi, oltre a esserci tutto quello che ho detto finora, c'è questo problema di salute. Tanto che il risultato finale, poi mi fermo, dati del rapporto geotermia dell'ARS, l'azienda regionale della sanità della Toscana, del 2010, quindi di quelli che la geotermia la fanno e la vogliono, hanno prodotto un documento fatto dall'Istituto Sant'Anna di Pisa, quindi dalla normale, hanno messo dei dati dicendo vedete non ci sono problemi, noi con i nostri studiosi, scienziati, ricercatori abbiamo preso quei dati, li abbiamo riaggregati perché nel documento erano disaggregati, ed è venuto fuori che sulla Miata c'è un eccesso di mortalità per tumore del 13% medio. Per capirsi, perché dati così magari non vogliono dire niente, a Taranto dove c'è l'ILVA l'eccesso di mortalità è dell'11%. Ok. Franco, passiamo alla Due Giorni, ce ne parli un po'? La Due Giorni è il quarto anno che noi la facciamo. Il comitato di Monticello, dove viene fatta la festa, ed è il comitato dove sto io, è nato nel 2011, quando è arrivata la seconda ondata di centrali, quella diciamo tra virgolette voluta da Forza Italia, quando era il governo Berlusconi nel 2010, in cui hanno liberalizzato l'energia geotermica che fino al 2010 era monopolizzata da Enel, e quindi il governo Berlusconi, in accordo col PD toscano, liberalizzano la produzione di energia geotermica e arrivano sulla Miata altri progetti per altre 20 centrali oltre a quelle che già ci sono, centrali più piccole di quelle Enel, centrali a ciclo binario, cioè centrali che in teoria non dovrebbero emettere sostanze nell'aria, poi abbiamo scoperto che non è vero, però non vi tedio, e a quel punto sono nati comitati in quasi tutti i paesi della Miata e limitrofi, ormai ci sono qualcosa come 10-15 comitati, è nato un coordinamento che si chiama NOGESI, no alla geotermia elettrica speculativa inquinante. Nel nostro versante corsetano i comitati sono veramente quasi comitati o comunque gruppi di persone sono in quasi tutti i paesi, e da 4 anni facciamo questa festa che è una 2 giorni in cui si unisce e si cerca di mettere insieme tutti i comitati per farci vedere, per incontrarci, per parlare, per discutere, ma anche per divertirci, perché porca vacca non ci si può soltanto flagellare quotidianamente stando dietro a queste cose. Quindi quest'anno noi facciamo questi 2 giorni, sabato si inizia, tra l'altro si sono uniti altri gruppi che non si occuperebbero specificatamente direttamente di geotermia, tipo Genuino Clandestino che collabora con noi a organizzare la festa, la sua diciamo succursale amiatina che si chiama Genuino Amiatino, quindi facciamo un mercato contadino, poi vabbè. La classica festa di paese, quindi ci sono il mangia fuoco, giocolieri, eccetera, eccetera. Il domenica alle 15 faremo l'assemblea dei comitati, quindi dalle 15 alle 16, più o meno, adesso gli orari saranno variabili, i comitati della Miata e dintorni si incontrano per parlare e fare il punto della situazione. Sabato sera invece facciamo il concerto con, tra l'altro da Roma, Le Radici nel Cemento, reggae, ska e dintorni, il tutto per farci conoscere, per appunto poter parlare, come sto facendo ora, anche fuori dalla Miata del nostro problema, ma anche purtroppo per tirare su 2 soldi, perché abbiamo dovuto come comitati fare dei ricorsi per bloccare queste 19 centrali che vogliono costruire, la spada di Damocle ce l'abbiamo sul capo, e purtroppo lo sapete meglio di me, fare un ricorso al TAR costa una discreta quantità di migliaia di euro che noi non abbiamo e che raccattiamo faticosamente come possiamo, dove possiamo, ovviamente nella maniera più etica possibile. Benissimo. Allora, ci lasci tutti i riferimenti web per il programma e anche per le vostre attività? Allora, il sito del comitato di Monticello, che si chiama Agora Cittadinanza Attiva, è sulla piattaforma No Blogs di Autistici, quindi è agorattiva.noblogs.org. Poi abbiamo anche una pagina Facebook che si chiama Agora Cittadinanza Attiva, e abbiamo anche una pagina specifica per la festa che è Giù le mani dalla nostra terra, dove c'è il programma, il manifesto, e poi via via che facciamo le cose, che organizziamo la festa, video, post, foto di tutto quello che succede. A Monticello c'è un campeggio, tra l'altro il titolare del campeggio è nel comitato, perché evidentemente il problema ce l'abbiamo tutti, tutto il paese nel comitato, devo dire la verità, non c'è qualcuno che è fuori, quindi c'è una convenzione con il campeggio. Se qualcuno vuole venire per tutto il fine settimana, dormire al campeggio è a prezzo popolare. Benissimo. C'è un'area tenda per i partecipanti al festival, e una cifra veramente, non dico irrisoria, ma quasi, si può stare in campeggio e partecipare alla festa. Ovviamente alla festa ci sarà anche gli stand per mangiare, pranzo e cena, con cibo chilometro zero, biologico e chi più ne ha più. Cerca di fare, anche se siamo pochi, piccini e debolucci, di fare le cose nel miglior modo possibile. Quarta festa, Giù le mani dalla nostra terra, Monticello Amiata, dal 7 all'8 luglio. Un ringraziamento a Franco dei Comitati contro la geotermia elettrica speculativa ed inquinante. Franco, un saluto, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, siete stati gentilissimi. Un saluto a tutti quanti.